Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Nella puntata di ieri sera abbiamo fatto la conoscenza con la città pestilenziale che accompagna la storia umana sin dai suoi primordi. È la città a demografia negativa che, senza una costante immigrazione dalle campagne, si estinguerebbe da sola a causa delle condizioni che sono drammatiche, igieniche e sanitarie, che si verificano quando migliaia di persone vivono a stretto contatto tra loro, insieme tra l'altro anche con gli animali, e senza né acquedotti né fognature, che con l'eccezione della Roma imperiale comparvero solo nel XIX secolo. È la rivoluzione industriale, come abbiamo visto, a trasformare le città in senso moderno, con le vie larghe, i viali alberati, le fognature appunto e gli acquedotti. Tutto questo in un libro di cui abbiamo iniziato a discutere ieri, Autoritratto dell'immondizia, edizione Volati Boringhieri, una storia della civiltà raccontata attraverso i rifiuti, che ci insegna però molto anche delle città di oggi. Continuiamo a parlarne stasera, naturalmente, con il suo autore Lorenzo Pinna. Bentornato. Buonasera a tutti e a tutti gli ascoltatori. Allora, dicevamo, la rivoluzione industriale risolve un problema storico, però ne inventa un altro. Sì, la rivoluzione industriale inventa, per così dire, il rifiuto solido urbano. Esatto. Perché il rifiuto solido urbano prima esisteva in maniera molto ridotta, l'abbiamo detto che il problema era soprattutto il liquame, il fognario, che però, adesso piccola riflessione, la grande invenzione della rivoluzione industriale, noi pensiamo che sia la macchina a vapore, che sia il treno, che sia altri tipi di macchine, che sono, in realtà è la domanda di massa, cioè è riuscita a creare un numero tale di consumatori in grado di comprare le merci che hanno sostenuto tutto lo sviluppo industriale, perché se non ci fosse stata questa domanda, dove erano i profitti, dove erano gli stipendi, dove erano i salari? Infatti cambia completamente la società, non quindi, cambia soltanto, esatto, come dire, la grande invenzione è stata le macchine, ma grazie alle macchine e al costo che si è abbassato di tutte le merci si è creata una domanda di massa, ed è questa che ha sostenuto poi tutto il gigantesco decollo poi degli anni successivi, poi dello sviluppo della distribuzione. E naturalmente tutto questo ha portato però a un'enorme quantità di rifiuti. Per esempio, esatto, gli imballaggi non esistevano assolutamente, no? Il consumo è stato la grande chiave di questo del decollo, anche la scienza, la tecnologia e tutto, ma il motore poi era il consumo, c'era cioè gente che comprava questi prodotti e poi a un certo punto si trasformava li buttava nei via. Rifiuti. E poi a un certo punto li buttava esatto. via. E qui comincia tutta un'altra storia, che è una storia molto più moderna. Sì, sì. Sì, diciamo qui, adesso qui ci sono tante, naturalmente qui si parla del mondo moderno, quindi ci sono tante soluzioni, tante esperienze, c'è quella dell'Italia, anche all'interno della stessa Italia ci sono tante situazioni diverse, ma insomma come io lo vedo è che il problema tecnologicamente è risolvibile, cioè ci sono delle soluzioni tecniche per affrontare tipo. Il problema dei rifiuti, con la differenziata, il riciclo delle varie frazioni, cos'è che manca? Anche perché il tremendo inceneritore certo. è un impianto. È molto meglio della fanghiglia per strada, per esempio, no? Sì, ecco, insomma. Sì. Ma è un impianto industriale che può essere controllato con le tecnologie. Certo, se è gestito male, come è gestito male qualsiasi altra cosa, fa guai. Ma questo non è l'inceneritore, è qualsiasi impianto gestito male. Ecco, però c'è qualcosa che è rimasto, non solo la necessità di smaltire dei rifiuti. In alcuni casi sono rimaste alcune modalità, e in particolare in una città, Napoli, purtroppo, diciamo, ogni tanto se ne parla per la questione dei rifiuti. Sembra che questa cosa abbia radici antiche. Lei racconta questo episodio perché lì il problema fu un problema di volontà politica, e oggi spesso il problema dei rifiuti è un problema di volontà politica. Non so se si vuole raccontare di questa vicenda. Sì, diciamo, Napoli ha conosciuto una prima parte del dramma dei rifiuti, che cominciò col 1884 con il grande colera di Napoli, e già allora il colera era già ormai, come dire, quasi sconfitto, no? Sì, fu una specie di grande dramma in cui arrivarono volontari da tutta l'Europa per soccorrere la popolazione. Insomma, in seguito a questo il governo italiano decise di investire una grossa somma, adesso non ricordo più in termini lì del tempo, in termini reali, quando, per ristrutturare Napoli. In pratica voleva dire che dovevano essere abbattuti, e di nuovo c'era sempre questa cosa del miasma, che bisognava togliere il miasma, quindi bisognava allargare le strade, arieggiarle, metterci gli alberi, ristrutturare tutti gli edifici in modo che non ci fossero più i bassi, queste specie di spelonche dove vivevano questi moderni proprietari. Poi ricordiamoci che in queste città di stampo medievale il bagno era la finestra, cioè nel senso, esatto, uno faceva quello che doveva scale, e poi lo lanciava fuori sulla strada. Attenzione, cioè, allora, e quindi ecco questa invece, allora io nel libro faccio un paragone tra la ristrutturazione di Napoli e la il risanamento, diciamo, di Napoli e il risanamento di Londra, andando proprio a vedere i meccanismi degli appalti. Allora si vede che a Londra c'è tutto un sistema molto organizzato, con archivi, con test di laboratorio, cioè tutte le partite di cemento venivano testate per vedere se corrispondevano ai requisiti del bando di appalto. Invece a Napoli cosa succede? Si vede che l'ingegnere capo aveva una ditta che produceva i mattoni, che si ricomprava lui stesso come consorzio del risanamento, era mattoni di bassissima qualità, tant'è che a Napoli ci furono tantissimi crolli all'epoca di tutte queste. Cioè, per farla breve, sì. Che cosa succedeva? Che nella Londra o nella Parigi erano spesi dei soldi produttivamente, cioè che poi puntavano a un futuro dove la città, anche dal punto di vista della municipalità, avrebbe avuto più soldi perché con un giro d'affari maggiore avrebbe riscosso più tasse. Nella Napoli invece questi investimenti vengono visti come massa di soldi da predare immediatamente, cioè non la produzione ma la predazione, cioè di predarli in qualsiasi modo. Il futuro non interessa, interessa mettere le mani sui soldi subito e poi così andare avanti alla meno peggio. E questo, poi i risultati si sono visti, perché il colera è tornato a Napoli, adesso lasciamo perdere il 1960, ma è tornato diverse volte fino al 1911. Grazie Lorenzo Pinna. Grazie a voi. Appuntamento a domani.